Prijedor è una città di Bosnia Nord-Ovest con 100.000 abitanti, prima della guerra anche adesso ci sono quasi, abbiamo questo numero, ma abbiamo per esempio circa 20-25.000 di rientrati bosniaci, una piccola parte di croati e anche abbiamo più di 20.000 profughi serbi dalle altre parti di ex Jugoslavia, da Croazia ma anche dalla Bosnia Erzegovina. Circa 50.000 serbi che sono stati qui anche durante la guerra. E proprio questa è stata la situazione dopo la guerra, dove diciamo si doveva iniziare a costruire un dialogo e una convivenza proprio con tutte queste tutti questi gruppi che erano, diciamo, ognuno in suo modo un po' speciale. La cosa principale che noi abbiamo riuscito come agenzia, ma anche come io sono membro anche del forum civico, e di avere ruolo neutrale sulla scena, diciamo, politica ma anche nazionale. I problemi più grandi sono proprio economia, che non parte anche 9 anni dopo la guerra, diciamo un grande supporto dalla comunità internazionale al cambio delle leggi e diciamo della politica qui in Bosnia Erzegovina, che alla fine non ha ottenuto risultati che doveva, diciamo, avere alla fine del processo. Cioè si stanno cambiando le leggi tutto a base di quello che si chiede per poter entrare nella comunità europea, ma alla fine rispetto delle leggi è il problema più grande qui. In ogni parte della vita dei nostri cittadini si vede proprio che mancano le leggi, mancano le istituzioni che rispettano le leggi, perché loro sono, diciamo, i primi che devono rispettare le leggi e dimostrare ai cittadini come farlo. E questa è forse la cosa principale che dovrebbe, diciamo, comunità internazionale sistemare qui, comunità internazionale che è già in Bosnia Erzegovina. La cosa generale, noi ci vediamo già come parte dell'Europa, cioè non siamo parte dell'Europa, comunità europea, ma siamo parte dell'Europa, questo è sicuro. E questo vogliamo anche, chiediamo dei cittadini di confermare questo con queste elezioni simboliche.